Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. Fu in quel tempo che, frequentando il cavaliere avvocato, Cosimo s'accorse di qualcosa di strano nel suo contegno, o meglio di diverso dal solito, più strano o meno strano che fosse. Come se la sua aria assorta non venisse più da svagatezza, ma da un pensiero fisso che lo dominava. I momenti in cui si mostrava ciarliero adesso erano più frequenti. E se una volta, insocievole com'era, non metteva mai piede in città, ora invece era sempre al porto, nei crocchi, o seduto sugli spalti coi vecchi patroni e marinai, a commentare gli arrivi e le partenze dei battelli o le malefatte dei pirati. Al largo delle nostre coste si spingevano ancora le feluche dei pirati di Barberia, molestando i nostri traffici. Era una pirateria da poco ormai, non più come ai tempi in cui a incontrare i pirati si finiva schiavi a Tunisi o ad Algeri, o ci si rimetteva naso e orecchi. Adesso, quando i maomettani riuscivano a raggiungere una tartana d'ombrosa, si prendevano il carico. Barili di baccalà, forme di cacio olandese, balle di cotone e via. Alle volte i nostri erano più svelti, gli sfuggivano, tiravano un colpo di spingarda contro le alberature della feluca e i barbareschi rispondevano sputando, facendo brutti gesti e urlacci. Insomma, era una pirateria alla buona, che continuava per via di certi crediti che i pascià di quei paesi pretendevano di dover esigere dei nostri negozianti armatori, non essendo, a sentir loro, stati serviti bene in qualche fornitura o addirittura truffati. E così cercavano di saldare il conto a poco, a forza di ruberie, ma nello stesso tempo continuavano le trattative commerciali, con continue contestazioni e patteggiamenti. Non c'era dunque interesse né da una parte né dall'altra a farsi degli sgarbi definitivi, e la navigazione era piena di incertezze e di rischi, che mai però degeneravano in tragedie. La storia che ora riferirò fu narrata da Cosimo in molte versioni differenti. Mi terrò a quella più ricca di particolari e meno illogica, seppure è certo che mio fratello, raccontando le sue avventure, ci aggiungeva molto di testa sua. Io, in mancanza di altre fonti, cerco sempre di tenermi alla lettera di quel che lui diceva. Dunque, una volta Cosimo, che facendo la guardia per gli incendi aveva preso l'abitudine di svegliarsi nella notte, vide un lume che scendeva nella valle. Lo seguì, silenzioso per i rami coi suoi passi da gatto, e vide Enea Silvio Carrega che camminava lesto lesto, col fez e la zimarra, reggendo una lanterna. Cosa faceva in giro a quell'ora il cavaliere avvocato, che era solito andare a letto con le galline? Cosimo gli andò dietro. Stava attento a non far rumore, pur sapendo che lo zio, quando camminava così infervorato, era come sordo e vedeva solo a un palmo dai suoi piedi. Per mulattiere, scorciatoie, il cavaliere avvocato giunse sulla riva del mare, in un tratto di spiaggia sassosa, e prese ad agitare la lanterna. Non c'era luna, nel mare non si riusciva a vedere nulla, tranne un muovere di spuma delle onde più vicine. Cosimo era su un pino, un po' distante dalla riva, perché laggiù finalmente si diradava la vegetazione e non era più tanto facile di sui rami arrivare dappertutto. Comunque, vedeva bene il vecchietto con l'alto fez sulla costa deserta, che agitava la lanterna verso il buio del mare, e da quel buio gli rispose un'altra luce di lanterna, tutto a un tratto, vicina, come se l'avessero accesa allora allora, ed emerse, velocissima, una piccola imbarcazione con una vela quadra oscura e i remi, diversa dalle barche di qui, e venne a riva. All'ondeggiante luce delle lanterne, Cosimo vide uomini col turbante in testa. Alcuni restarono sulla barca, tenendola accostata a riva con piccoli colpi di remi. Altri scesero e avevano larghi calzoni rossi rigonfi e luccicanti scimitarre infilate alla vita. Cosimo aguzzava occhi e orecchi. Lo zio e quei berberi parlottavano tra loro, in una lingua che non si capiva, eppure spesso sembrava si potesse capire, e certo era la famosa lingua franca. Ogni tanto Cosimo intendeva una parola nella nostra lingua, su cui Enea Silvio insisteva, frammischiandola con altre parole incomprensibili. E queste parole nostre erano nomi di navi, noti nomi di tartane o brigantini appartenenti ad armatori d'ombrosa, o che facevano la spola tra il nostro ed altri porti. Ci voleva poco a capire cosa stava dicendo il cavaliere. Stava informando quei pirati sui giorni d'arrivo e di partenza delle navi d'ombrosa e del carico che avevano, della rotta, delle armi che portavano a bordo. Ora il vecchio doveva aver riferito tutto quel che sapeva, perché si voltò e andò via veloce, mentre i pirati risalivano sulla lancia e risparivano nel mare buio. Dal modo rapido in cui la conversazione si era svolta si capiva che doveva essere una cosa abituale. Chissà da quanto tempo gli agguati barbareschi avvenivano seguendo le notizie di nostro zio. Cosimo era rimasto sul Pino, incapace di staccarsi di là dalla marina deserta. Tirava vento, l'onda rodeva le pietre, l'albero gemeva in tutte le sue giunture e mio fratello batteva i denti, non per il freddo dell'aria, ma per il freddo della triste rivelazione. Ecco che quel vecchietto timido e misterioso che noi da ragazzi avevamo sempre giudicato infido e che Cosimo credeva ad aver imparato a poco ad apprezzare e compatire, si rivelava un traditore imperdonabile. Un uomo ingrato che voleva il male del paese che l'aveva raccolto come un relitto dopo una vita d'errori. Perché? A tal punto lo spingeva la nostalgia di quelle patrie e quelle genti in cui si doveva essere trovato una volta nella sua vita felice? Oppure covava un rancore spietato contro questo paese, in cui ogni boccone doveva sapergli d'umiliazione? Cosimo era diviso tra l'impulso di correre a denunciare le mene dello spione e a salvare i carichi dei nostri negozianti e il pensiero del dolore che ne avrebbe provato nostro padre, per quell'affetto che inspiegabilmente lo legava al fratellastro naturale. Già Cosimo immaginava la scena. Il cavaliere ammanettato in mezzo agli sbirri, tra due ali di ombrosotti che gli inveivano contro, e così era condotto nella piazza, gli mettevano il cappio al collo, li impiccavano. Dopo la veglia funebre a Gian dei Brughi, Cosimo aveva giurato a se stesso che non sarebbe mai più stato presente a un'esecuzione capitale. Ed ecco che gli toccava essere arbitro della condanna a morte d'un proprio congiunto. Per tutta notte si tormentò in quel pensiero e continuò per tutta la giornata seguente, passando furiosamente da un ramo all'altro, scalciando, sollevandosi con le braccia, lasciandosi scivolare per i tronchi, come sempre faceva quando era in preda ad un pensiero. Finalmente prese la sua decisione. Avrebbe scelto una via di mezzo: spaventare i pirati e lo zio per far sì che troncassero il losco loro rapporto, senza bisogno dell'intervento della giustizia. Si sarebbe appostato su quel pino la notte con 3 o 4 fucili carichi, ormai si era fatto tutto un arsenale per i vari bisogni della caccia. Quando il cavaliere si fosse incontrato coi pirati, egli avrebbe cominciato a sparare uno schioppo dopo l'altro, facendo fischiare le pallottole sopra le loro teste. A sentire quella fucileria, pirati e zio sarebbero scappati ognuno per suo conto. E il cavaliere, che non era certo uomo audace, nel sospetto d'essere stato riconosciuto e nella certezza che ormai si vigilava su quei convegni della spiaggia, si sarebbe guardato bene da ritentare i suoi approcci con gli equipaggi maomettani. Difatti Cosimo, coi fucili puntati, aspettò sul pino per un paio di notti e non successe niente. La terza notte, ecco il vecchietto in fez trotterellare incespicando nei sassi della riva, far segnali con la lanterna e la barca approdare coi marinai in turbante. Cosimo stava pronto col dito sul grilletto, invece non sparò, perché stavolta tutto era diverso. Dopo un breve parlamentare, 2 dei pirati scesi a riva fecero segno verso la barca e gli altri cominciarono a scaricare roba. Barili, casse, balle, sacchi, damigiane, barelle piene di formaggi. Non c'era una barca sola, erano in tante, tutte cariche, e una fila di portatori in turbante si snodò per la spiaggia, preceduta dal nostro zio naturale che li guidava con la sua corsetta esitante fino a una grotta tra gli scogli. Là i mori riposero tutte quelle merci, certo il frutto delle loro ultime piraterie. Perché la portavano a riva? In seguito fu facile ricostruire la vicenda. Dovendo la feluca barbaresca gettare l'ancora in uno dei nostri porti, per un qualche negozio legittimo, come sempre ne intercorrevano tra loro e noi in mezzo alle imprese di rapina, e dovendo quindi assoggettarsi alla perquisizione doganale, bisognava che nascondessero le mercanzie depredate in luogo sicuro, per poi riprenderle al ritorno. Così la nave avrebbe anche dato prova della sua estraneità dalle ultime ladrerie e rinsaldato i normali rapporti commerciali col paese. Tutto questo retroscena lo si seppe chiaramente dopo. Sul momento Cosimo non si soffermò a porsi domande. C'era un tesoro di pirati nascosto in una grotta. I pirati risalivano in barca e lo lasciavano lì. Bisognava al più presto impadronirsene. Per un momento mio fratello pensò ad andare a svegliare i negozianti d'Ombrosa, che dovevano essere i legittimi proprietari delle mercanzie. Ma subito si ricordò dei suoi amici carbonai che pativano la fame nel bosco con le loro famiglie. Non ebbe esitazione. Corse per i rami diretto ai luoghi in cui, attorno alle grigie piazzole di terra battuta, i bergamaschi dormivano in rozze capanne. «Presto! Venite tutti! Ho scoperto il tesoro dei pirati!» Sotto le tende e le frasche delle capanne ci fu uno sbuffio, uno scatarrio, un umprichio e al fine esclamazioni di meraviglia, domande «Oro? Argento?» «Non ho visto bene», disse Cosimo. Dall'odore direi che c'è una quantità di stoccafisso e di formaggio pecorino. A queste sue parole si elevarono tutti gli uomini del bosco. Chi aveva schioppi prendeva schioppi, gli altri accette, spiedi, vanghe o pale, ma soprattutto si portarono dietro recipienti per mettere la roba. Anche le sfasciate ceste del carbone e i neri sacchi. S'avviò una grande processione. Hurra, hota! Anche le donne scendevano con le ceste vuote sul capo e i ragazzi incappucciati nei sacchi, reggendo le torce. Cosimo li precedeva di pino da bosco in ulivo, d'ulivo in pino da marina. Già stavano per svoltare allo sperone di scoglio, oltre al quale s'apriva la grotta, quando in cima a un contorto fico apparve la bianca ombra d'un pirata. Alzò la scimitarra e urlò l'allarme. Cosimo in pochi salti fu sul ramo sopra di lui e gli puntò la spada nelle reni, finché quello non si buttò giù nel dirupo. Nella grotta c'era una riunione di capi pirati. Cosimo, prima, in quel va e viene dello scarico, non s'era accorto che erano rimasti là. Sentono il grido della sentinella, escono e si vedono attorniati da quell'orda di uomini e donne tinti di fuliggine in viso, incappucciati in sacchi e armati di pale. Alzano le scimitarre e si buttano avanti per aprirsi un varco. «Hurra! Hota! Inshallah!» cominciò la battaglia. I carbonai erano in più, ma i pirati erano armati meglio. Per quanto, a battersi contro le scimitarre, si sa, non c'è niente di meglio delle pale. Deng, deng, e quelle lame del Marocco si ritiravano, tutte seghettate. Gli schioppi, invece, facevano tuono e fumo e poi più niente. Anche alcuni dei pirati, ufficiali si vede, avevano fucili molto belli a vedersi, tutti damascati. Ma nella grotta le pietre focaie avevano preso umido e facevano cilecca. I più svegli dei carbonai tiravano a stordire gli ufficiali pirati con colpi di pala in testa per sottrar loro i fucili. Ma con quei turbanti e i barbareschi ogni colpo arrivava attutito come su un cuscino. Era meglio dargli un'occhiata nello stomaco, perché avevano nudo l'ombelico. Visto che l'unica cosa che non mancava erano i sassi, i carbonai presero a tirar sassate. I mori allora sassate pure loro. Coi sassi finalmente la battaglia prese un aspetto più ordinato, ma siccome i carbonai tendevano ad entrare nella grotta, sempre più attratti dall'odor di stoccafisso che ne spirava, e i barbareschi tendevano a scappare verso la scialuppa rimasta sulla riva, tra le due parti mancavano dei grandi motivi di contrasto. A un certo punto, da parte bergamasca, ci fu un assalto che aperse loro l'ingresso della grotta. Da parte maomettana ancora resistevano sotto una gragnola di pietrate, quando videro che la via del mare era libera. Cosa resistevano a fare, dunque? Meglio alzar la vela e andarsene. Raggiunta la navicella, tre pirati, tutti nobili ufficiali, sbrogliarono la vela. Con un salto da un pino vicino a riva, Cosimo si lanciò sull'albero, si aggrappò alla traversa del pennone e di lassù, tenendosi stretto coi ginocchi, sguainò la spada. I tre pirati alzarono le scimitarre. Mio fratello, con fendenti a destra e a manca, li teneva in scacco tutti e tre. La barca, ancora atterrata, si inclinava ora da una parte, ora dall'altra. Sorse la luna in quel momento e lampeggiarono la spada donata dal barone al figlio e quelle lame maomettane. Mio fratello scivolò giù per l'albero e affondò la spada in petto ad un pirata che cadde fuori bordo. Svelto come una lucertola, risalì difendendosi con due parate dai fendenti degli altri. Poi calò giù ancora e infilzò il secondo. Risalì, ebbe una breve schermaglia con il terzo e con un'altra delle sue scivolate lo trafisse. I tre ufficiali maomettani erano stesi mezzo nell'acqua, mezzo fuori, con la barba piena d'alghe. Gli altri pirati all'imboccatura della grotta erano tramortiti dalle sassate e dai colpi di pala. Cosimo, ancora arrampicato sull'albero della barca, guardava trionfante intorno, quando dalla grotta saltò fuori, scatenato come un gatto col fuoco sulla coda, il cavaliere avvocato, che era stato là nascosto fino allora. Corse per la spiaggia a testa bassa, diede una spinta alla barca staccandola da riva, ci saltò sopra ed afferrati i remi si mise a darci dentro a più non posso, vogando verso il largo. «Cavaliere, che fate? Siete matto?» diceva Cosimo, aggrappato al pennone. «Tornate a riva, dove andiamo?» Ma che? Era chiaro che Enea Silvio Carrega voleva raggiungere la nave dei pirati per porsi in salvo. Ormai la sua felonia era irrimediabilmente scoperta e se restava a riva sarebbe certo finito sul patibolo. Così remava, e Cosimo, benché ancora si trovasse con la spada sguainata in mano e il vecchio fosse disarmato e debole, non sapeva cosa fare. In fondo far violenza a uno zio gli dispiaceva, e poi per raggiungerlo avrebbe dovuto calar giù dall'albero, ed il quesito se scendere in una barca equivalesse a scendere a terra, o se già non avesse derogato alle sue leggi interiori, saltando da un albero con le radici a un albero di nave, era troppo complicato per porselo in quel momento. Così non faceva niente. S'era accomodato sul pennone, una gamba di qua e una di là dell'albero, e andava via sull'onda, mentre un lieve vento gonfiava la vela e il vecchio non smetteva di remare. sentì un abbaio. Ebbe un trasalimento di gioia. Il cane, Ottimo Massimo, che durante la battaglia aveva perso di vista, era là accucciato in fondo alla barca e scodinzolava come nulla fosse. Poi, rifletté Cosimo, non c'era da stare tanto in pena. Era in famiglia, con suo zio, col suo cane, andava in barca, il che dopo tanti anni di vita arborea era un piacevole diversivo. C'era la luna sul mare. Il vecchio era ormai stanco, remava a fatica e piangeva e prese a dire: «Ah, Zaira! Ah, Allah, Allah, Zaira! Ah, Zaira, Inshallah!» E così, inspiegabilmente, parlava in turco. E ripeteva tra le lagrime questo nome di donna che Cosimo non aveva mai udito. «Che dite, cavaliere? Cosa vi prende? Dove andiamo?» domandava. «Zaira, ah, Zaira, Allah, Allah!» faceva il vecchio. «Chi è Zaira, cavaliere? Vi credete d'andare da Zaira di per qua?» Ed Enea Silvio Carrega faceva segno di sì col capo e parlava turco tra le lagrime e gridava alla luna quel nome. Su questa Zaira, la mente di Cosimo cominciò subito a mulinare supposizioni. Forse stava per svelarglisi il più profondo segreto di quell'uomo schivo e misterioso. Se il cavaliere, andando verso la nave pirata, intendeva raggiungere questa Zaira, doveva dunque trattarsi di una donna che stava là, in quei paesi ottomani. Forse tutta la sua vita era stata dominata dalla nostalgia di questa donna. Forse era lei l'immagine di felicità perduta che egli inseguiva allevando api o tracciando canali. Forse era un amante, una sposa che aveva avuto laggiù, nei giardini di quei paesi oltremare, oppure più verosimilmente una figlia, una sua figlia che non vedeva da bambina. Per cercar lei doveva aver tentato per anni d'aver rapporto con qualcuna delle navi turche o moresche che capitavano nei nostri porti. E finalmente dovevano avergli dato sue notizie. Forse aveva appreso che era schiava e per riscattarla gli avevano proposto di informarli sui viaggi delle tartane d'Ombrosa. Oppure era uno scotto che doveva pagare lui per essere riammesso fra loro e imbarcato per il paese di Zaira. Ora, smascherato il suo intrigo, era costretto a fuggire da Ombrosa e quei berberi non potevano ormai più rifiutarsi di prenderlo con loro e riportarlo da lei. Nei suoi discorsi ansanti e smozzicati si mescolavano accenti di speranza, di supplica e anche di paura. Paura che ancora non fosse la volta buona, che ancora qualche disavventura dovesse separarlo dalla creatura desiderata. Non ce la faceva più a spingere i remi quando si avvicinò un'ombra, un'altra lancia barbaresca. Forse dalla nave avevano sentito il rumore della battaglia sulla riva e mandavano degli esploratori. Cosimo scivolò a metà dell'albero per essere nascosto dalla vela. Il vecchio, invece, cominciò a gridare in lingua franca che lo prendessero, che lo portassero alla nave, e protendeva le braccia. Fu esaudito, difatti. Due giannizzeri in turbante, appena fu a portata di mano, lo afferrarono per le spalle, lo sollevarono, leggero com'era, e lo tirarono sulla loro barca. Quella su cui era Cosimo, per il contraccolpo, fu spinta via. La vela prese il vento e così mio fratello, che già si vedeva morto, sfuggì all'esser scoperto. Allontanandosi sul vento, a Cosimo giungevano dalla lancia pirata delle voci come d'un alterco. Una parola, detta dai mori che sono simili a marrano, e la voce del vecchio che si udiva ripetere come un ebete «Ah, Zaira!» non lasciavano dubbi sull'accoglienza che era toccata al cavaliere. Certo lo tenevano per responsabile dell'imboscata alla grotta, della perdita del bottino, della morte dei loro, l'accusavano d'averli traditi. S'udì un urlo, un tonfo, poi silenzio. A Cosimo venne il ricordo, netto come lo sentisse, della voce di suo padre quando gridava «Enea Silvio! Enea Silvio!» inseguendo il fratello naturale per la campagna e nascose il viso nella vela. Rimontò sul pennone per vedere dove stava andando la barca. Qualcosa galleggiava in mezzo al mare come trasportato da una corrente, un oggetto, una specie di gavitello, ma un gavitello con la coda. Ci batté sopra un raggio di luna e vide che non era un oggetto ma una testa calzata da un fez col fiocco. E riconobbe il viso riverso del cavaliere avvocato, che guardava con la solita aria sbigottita, a bocca aperta, e dalla barba in giù tutto il resto era nell'acqua e non si vedeva, e Cosimo gridò «Cavaliere! Cavaliere, che fate? Perché non montate? Attaccatevi alla barca, ora vi faccio salire, cavaliere!» Ma lo zio non rispondeva. Galleggiava, guardando in alto con quell'occhio sbigottito che pareva non vedesse nulla, e Cosimo disse «Dai, Ottimo Massimo, buttati in acqua, prendi il cavaliere per la collottola, salvalo!» Il cane obbediente si tuffò. Cercò d'addentare alla collottola il vecchio, non ci riuscì, lo prese per la barba. «Per la collottola, Ottimo Massimo, ho detto!» insisté Cosimo.